Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo della Germania, un paese sempre più al centro dell'attenzione. Sappiamo delle sue performance economiche, in molti temono il fatto che prima o poi venga voglia la Germania di far da sola e di distaccarsi magari dolcemente dai vincoli europeistici per affermare appunto il proprio ruolo, che in campo economico è sempre più forte. E allora, per avvicinarci alla realtà di questo paese così importante per le sorti dell'Europa e in fondo per lo sviluppo della politica di tutti noi, vi segnalo il libro La Germania di Angela Merkel, curato da Silvia Bolgherini e Florian Grotz, pubblicato dal Mulino, 288 pagine, 23 euro. Il libro, che racchiude saggi di diversi autori, si ripartisce in tre capitoli: gli anni della Grande Coalizione, il primo governo della Merkel, un capitolo dedicato alle elezioni del 2009 e poi l'ultimo capitolo che esamina le vicissitudini del nuovo governo e le sfide future. Tema centrale quindi, come capite, appunto questo della Grande Coalizione. Il libro si chiede se quella pagina, che non fu unica nella storia della Germania, sia stato un episodio oppure una svolta. Certamente il libro analizza le performance di quel periodo, di quel governo, per concludere che quello non fu, contrariamente a quanto si teme normalmente quando si dà vita a queste esperienze o contrariamente a quanto si pensa giudicando quel periodo in Germania, e quello non fu un periodo di paralisi, e ci furono dei risultati molto buoni che il governo consentì di raggiungere, per esempio una gestione della crisi che ha gettato le basi per il recupero al quale assistiamo in questi mesi proprio in Germania. Insomma, non fu proprio un periodo di paralisi. E proprio su questo il volume si conclude, per sottolineare come in fondo ci sia un'ombra lunga che ancora si staglia, si proietta sulla fase attuale della politica tedesca. E su questo rivolgo alcune domande alla curatrice del libro, che è una politologa all'Università di Napoli, Federico II. Buongiorno a Silvia Bolgherini. Buongiorno. Silvia Bolgherini, nel suo libro lei sottolinea l'importanza nella storia recente della Germania, come dicevamo prima, della Grande Coalizione, e ricorda anche che poi alle elezioni che conclusero quell'esperienza l'effetto negativo fu soprattutto in termini elettorali per i socialisti, per l'SPD, mentre i liberali ebbero un grande vantaggio. Ecco, questo significa che la Grande Coalizione fu impopolare soprattutto a sinistra in Germania? Dunque, innanzitutto bisogna sottolineare che le grandi coalizioni sono sempre impopolari in Germania, nel senso che i tedeschi amano molto poco le coalizioni di larghe intese, i governi di larghe intese, quelle che noi chiameremo anche governi di unità nazionale, perché sono amanti della chiarezza e della divisione dei ruoli ben precisa. Quindi, infatti, questa grande coalizione, quella sotto il cancellierato Merkel tra il 2005 e il 2009, è stata la seconda grande coalizione della storia della Germania democratica. Ce n'è stata solo un'altra precedentemente, tra il 66 e il 69, quindi sono piuttosto rare, e questo proprio perché i tedeschi non amano, non vedono di buon occhio queste coalizioni che sono formate dai due maggiori partiti del paese, che sono i socialdemocratici, la SPD, e i democristiani, la CDU, con la loro componente bavarese della CSU. Quindi sono non solo a sinistra, diciamo che a sinistra è stata particolarmente impopolare, perché alle elezioni federali del 2009 i socialdemocratici sono stati particolarmente penalizzati, ma sono comunque viste con poco favore. C'è da dire anche che le grandi coalizioni, paradossalmente però, sono viste anche come le uniche opzioni coalizionali in grado di affrontare le grandi riforme in Germania, e questo è stato, diciamo, confermato perché ad esempio la riforma del federalismo tedesco è stata appunto messa in atto proprio durante la legislatura 2005-2009. Infatti lei nel suo libro, nella conclusione, sottolinea come comunque non si possa parlare di un risultato negativo, quantomeno non hanno peggiorato le cose i mesi della Grande Coalizione. La legislatura completa, quindi 4 anni di grande coalizione, non ha peggiorato le cose, non è stata la coalizione, la legislatura delle grandi riforme, anche perché a differenza della prima volta, della prima grande coalizione, è stata una soluzione forzata, nel senso nessuno dei due grandi partiti aveva raggiunto la maggioranza con il proprio alleato naturale e sono stati costretti a mettersi insieme, quindi non avevano un programma comune. E quindi non hanno fatto chissà quali grandi riforme, ma allo stesso tempo neanche anche c'è stato lo stallo che tutti temevano, mm-hmm. perché appunto c'è stata l'approvazione della riforma federale, che è stata nel 2006 la prima parte, nel 2009 la seconda parte, che è stata praticamente la più grande riforma costituzionale della Germania democratica del dopoguerra, e poi ci sono state anche varie altre politiche positive, ad esempio le politiche delle famiglie, per la famiglia, e in particolare c'è stata un'ottima reazione alla crisi economico-finanziaria globale del 2008-2009. Ecco, questo nuovo federalismo al quale la grande coalizione di Angela Merkel diede vita, insegna qualche cosa al federalismo che si vuol fare in Italia? Questo è più complesso come discorso, perché in realtà la riforma federale ha comportato un leggero, per ora leggero, spostamento da un federalismo cooperativo al federalismo competitivo. Significa che da un federalismo dove tutti, lo Stato federale, tutti gli stati tedeschi che si chiamano Länder, e anche in certe misure anche le unità substatali partecipano in un insieme di relazioni molto complesse, orizzontali, verticali, eccetera, verso un federalismo competitivo dove invece diciamo sperando che la ripartizione delle competenze è molto più netta, diciamo. E anche le responsabilità sono più chiare. C'è stato questo leggero spostamento verso questo nuovo federalismo, soprattutto per ragioni economiche, di insostenibilità di alcuni costi, tra cui per esempio il finanziamento agli ex Länder dell'ex Germania Est. In termini politologici, sì. Lei ritiene che l'esperienza della grande coalizione in generale possa essere esportata in Italia? In fondo noi stiamo attraversando un periodo di grande turbolenza politica e qualcuno non si nasconde che alla fine lo sbocco, magari dopo le elezioni, potrebbe essere proprio quello. Sì, diciamo che le grandi coalizioni in Italia sarebbero una configurazione quasi più normale, perché siamo abituati a configurazioni di governo più varie rispetto a quelle accettate, diciamo, dall'opinione pubblica tedesca. Quindi i governi di unità nazionale sono sempre transitori, sempre visti come qualcosa di temporaneo, e comunque in Italia sarebbero, soprattutto in una situazione attuale, sarebbero visti come appunto passaggi temporanei di qualche mese, mentre in Germania, seppur temporanei, durano comunque tutta l'intera legislatura. Questa è anche una differenza importante, portando anche a qualche risultato, come abbiamo visto. Esatto. Grazie a Silvia Bolgherini, curatrice con Florian Grotz della Germania di Angela Merkel. Buona domenica. Grazie a lei, buona domenica. Una testimonianza interessante della storia recente della Germania, e non soltanto, è la biografia Il Barone, di cui è autrice Sibyl von der Schulenburg, che parla qui del padre. E infatti il sottotitolo del libro è Werner von der Schulenburg, fra storia, passioni e intrighe, pubblicato da Ipertesto, 430 pagine, 25 euro. Il protagonista è un personaggio davvero interessante, una figura singolare, cosmopolita, colta, europea, che incrociò nella sua vita molti dei protagonisti del suo tempo, tra i quali anche Lenin. In particolare il barone era appassionato dell'Italia, fece quasi da ambasciatore culturale, da ponte tra il nostro paese e la Germania, ed ebbe ottimi rapporti con Mussolini anche attraverso Margherita Sarfatti. Di Mussolini in particolare ricorda una curiosa esperienza, un colloquio che ebbe con lui nel 1927, nel quale ebbe l'impressione di una persona singolare, strana, particolare, che riusciva ad assommare in sé tantissime caratteristiche, quasi fosse un grande attore. Sentiamo qualche riga tratte proprio da un ricordo personale del barone von der Schulenburg. Quando entrai nella vastissima sala, vidi dietro alla grande scrivania posta nell'angolo un uomo di statura media che si procurava un po' di movimento battendo i piedi, come sono soliti fare gli operai nei giorni di gran freddo. Quando mi avvicinai alla scrivania, mi ricevette Napoleone. Non molto più tardi venni esaminato da un maestro elementare, dopodiché ebbi a che fare con un capitano d'industria che nel corso del colloquio cedette il posto a un cardinale. Dopo quest'ultimo parlò in modo compassato e bello un umanista fiorentino e la chiusura fu fatta da una vecchia, bonaria signora con molta comprensione umana e una punta di cattiveria. Il barone invece fu un oppositore coraggioso e un acerrimo nemico di Hitler e anzi fece di tutto per mettere in guardia il duce dall'alleanza con il Führer. E quindi questa biografia, ricca di testimonianze inedite e anche di alcune immagini dell'epoca, ci dà una prospettiva molto particolare su alcune delle pagine più drammatiche della storia d'Europa. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Si è svolto ieri in Vaticano il Concistoro, la cerimonia nella quale il Papa nomina i nuovi cardinali. Tra questi, come sapete, un nome noto agli ascoltatori di questa radio e ai lettori del Sole 24 Ore, cioè Gianfranco Ravasi. Gli facciamo da questa sede gli auguri, aggiungiamo i nostri auguri segnalando il suo ultimo libro, Questioni di fede, 150 risposte ai perché di chi crede e di chi non crede. Mondadori, 266 pagine, 19 euro. È proprio dal dialogo coi lettori e coi telespettatori che nasce questo libro. I quesiti diventano occasioni per approfondire i temi relativi alla fede cattolica, raggruppati in alcuni capitoli, quelli relativi alle domande prime, alle domande laiche, alle domande ultime, alle domande ebraiche e alle domande cristiane. Moltissimi naturalmente gli spunti utili per rinfrescare qualche nozione, ma soprattutto per approfondire molti aspetti della cultura cristiana e anche del dibattito all'interno della Chiesa e della Chiesa con il mondo esterno. Vi propongo dal libro di Ravasi queste righe che ho trovato particolarmente significative sul caso di Galileo Galilei. Ravasi nelle righe precedenti ha ricordato l'immagine che di Galilei diede Brecht nel suo famoso dramma e in qualche misura ricolloca la vicenda di Galileo Galilei nell'ambito della discussione come andrebbe, secondo Ravasi, condotta. In realtà, e questo è documentato in modo inequivocabile, la sentenza contro di lui, contestata già da alcuni giudici, non fu mai firmata dal Papa di allora e, se ci fu reclusione, fu una sorta di arresti domiciliari nella casa di Arcetri, ove poté proseguire nella sua ricerca fino alla morte, avvenuta l'8 gennaio 1642, con fermezza filosofica e cristiana, a 77 anni di età, 10 mesi e 20 giorni, come annotava il suo assistente Vincenzo Viviani. Questo, ovviamente, non cancella l'errore pratico e teorico compiuto dalle istituzioni ecclesiastiche. Infatti, l'intuizione di Galileo, a livello metodologico, era capitale ed è alla base di ogni autentica ermeneutica, come attestano le sue lettere all'abate Benedetto Castelli e a Cristina di Lorena. Egli definiva i canoni corretti dell'interpretazione biblica alla ricerca della verità delle sacre scritture. Una verità non di tipo scientifico, ma necessaria alla salute, ossia alla salvezza dell'umanità. E di converso, sul versante scientifico, egli delineava la specificità e l'autonomia dell'approccio delle varie scienze. La lezione di Galileo insegna il rigore metodologico e la pacatezza intellettuale contro ogni prevaricazione di campo, nella capacità di ciascuno, teologo e scienziato, di custodire con rigore il proprio ambito di ricerca e di analisi. Prendo spunto proprio da queste righe su Galileo per agganciarmi al libro che adesso vi presento, che dedica al caso di Galileo alcune pagine importanti. È il libro di uno studioso che potrebbe anche lui ambire a diventare cardinale se l'ateismo fosse una chiesa. Mi riferisco a Giulio Giorello, di cui è uscito Senza Dio, del buon uso dell'ateismo, è pubblicato da Longanesi, 232 pagine, 15 euro. In realtà Giorello non è un cardinale neanche in senso figurato, proprio perché egli vuole contestare questo presunto dogmatismo nel quale spesso cadono a loro volta gli atei, e anzi si sforza di sottolineare nel suo libro come l'ateismo, lo cito, non sia una dottrina definita, ma un complesso di atteggiamenti, alcuni dei quali mi paiono più efficaci della mera sospensione del giudizio. Aggiunge: vedo l'ateismo non come una rete di dogmi simmetrici a quelli di qualsiasi teismo, ma come un repertorio di strumenti intellettuali e pratici che riguardano il nostro modo di indagare l'universo e di scegliere il nostro destino. E quindi Giorello collega questo tema al tema della libertà di pensiero, del liberalismo, e per questo polemizza appunto con gli atei dottrinari. Ritengo futile, scrive, un ateismo che pretenda di fondarsi su un corpus di prove della non esistenza di Dio, e continua a stupirmi, aggiunge chi proclama che dopo Hume e dopo Darwin il corso del pensiero dovrebbe imporre al filosofo l'ateismo. Insomma, conclude Giorello, la forza dello spirito per l'ateismo non sta nel dimostrare che Dio non c'è, bensì nel rifiuto di riconoscerlo come un padrone. E quindi, se siete credenti ovvero agnostici, è un libro comunque interessante, perché fuori da molte volgarità nel quale spesso precipita il dibattito sulla religione e in particolare sul ruolo che la religione deve avere nel dibattito civile. Ultimi arrivi. Vi segnalo oggi due libri che si rivolgono a due nicchie molto ampie, peraltro, di pubblico fedele e appassionato del genere o dell'autore. Il primo è il libro di Arturo Pérez Reverte, l'autore spagnolo che ha tanti fans in tutto il mondo, ma anche nel nostro paese. Il suo ultimo titolo è Il giocatore occulto, pubblicato sempre da Tropea, 638 pagine, 20 euro, tradotto da Roberto Bovaia, un libro che ci riporta nella Cadice, una città allora molto vivace e aperta, del 1801. E che si ricollega all'occupazione napoleonica. Un libro popolato da personaggi insoliti in uno dei momenti più importanti e significativi non soltanto della Spagna ma della storia d'Europa. Il secondo libro è quello di Lars Kepler, l'autore svedese dell'ipnotista. Il nome in realtà è lo pseudonimo di una coppia, Alexander Andoril e la moglie Alexandra Coelho. Il libro si intitola questa volta L'esecutore, pubblicato da Longanesi, 574 pagine, 18,60 euro, ed è tradotto da Alessandro Bassini, Monica Corbetta e Barbara Fagnoni. Un altro thriller svedese, un genere che ormai è molto popolare nel nostro paese, che qui prende le mosse da un delitto razionalmente inspiegabile, un'impiccagione molto sui generis che ci porterà nell'intrico di uno dei commerci internazionali più opachi e pericolosi. Passo adesso a due titoli italiani, due libri ambiziosi. Il primo è quello di Walter Siti, Autopsia dell'ossessione, Mondadori, 302 pagine, 19 euro. L'autore è uno scrittore, critico letterario, studioso di Pasolini, che torna con la vicenda di un ricco, almeno all'inizio, alla fine sarà quasi spiantato, antiquario di nobile schiatta, consumato dalla passione tutta carnale per un bodybuilder di borgata romana. Questo non è solo la storia di un amore gay, ma l'autentica cronaca molto cruda e realista, anche per le foto esplicite che accompagnano il libro, di un'ossessione esasperata, da un lato dal comparire di un rivale col quale dovrà dividersi il partner, consapevole peraltro di trovare in questo secondo amante l'affetto che il primo, l'antiquario, non riesce a dargli, e dall'altro esasperato dal difficile rapporto con una madre dispotica, autoritaria, che sfocerà nel dramma finale, o almeno in una delle facce del finale di questo libro. Comunque interessante e significativo. Altrettanto ambizioso è il romanzo di Andrea De Carlo, Lei e lui, è pubblicato da Bompiani, 568 pagine, 18,50 euro, un romanzo per così dire minimalista che con passaggi minuti quasi insignificanti all'apparenza però ci illustra lo sconvolgimento che può succedere nelle vite dei personaggi. Troviamo uno scrittore di successo in fase di stanca, investito da un'automobile nella quale c'è una coppia a sua volta stanca, con una ragazza intelligente frustrata da un fidanzamento con un giovane professionista milanese particolarmente noioso e insignificante anche perché succubo completamente della madre. E appunto di passo in passo le vite cambiano, le relazioni sbocciano, i sentimenti si affinano, insomma la vita scorre. E a questo punto il confettino. Siamo a inizio settimana e quindi vi segnalo il libro Lunedì di Anne Herbrand, pubblicato da Lapis, 16 euro, grandi illustrazioni e poche parole per abituarci allo scorrere del tempo attraverso le avventure del primo giorno lavorativo della settimana. E con questo ringrazio Margherita Aina in redazione, Filippo Vreggi in regia, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento a settimana prossima.